spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi invento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. E-u. Di ragazzi, pezzi dentro ad un telefono. La notte è giovane, sognami adesso. Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, tra poche ore. Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio un pezzo panino e ti perdo. Faccio schiaffi, con l'asfalto, col cemento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa. Nuova città in centro con la macchina del tempo. Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle. Parte il campionato e si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle. Si riaccendono le stelle. Di riccione mi vento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi con le onde, con il vento le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te.